America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. News waking up to the American investment bank Lehman Brothers has filed for bankruptcy in New York. That's happened in the last few minutes. Direi che vale la pena oggi di aprire sulla crisi economico-finanziaria che compie 4 anni, ha compiuto 4 anni questo weekend, è stato il 15 settembre di 4 anni fa che Lehman Brothers fallì. Ricordo quella giornata come se fosse oggi, perché fu una giornata altalenante, era una domenica, sembrava che le cose potessero mettersi a posto, c'era un filo caldo del telefono tra Washington, New York e Londra. I banchieri centrali, le tesorerie, i grandi banchieri internazionali, tutti coinvolti in questo tentativo di salvataggio, con la complicazione, vi ricordo, che ci fu allora, e cioè il pericolo di un fallimento che si profilò il venerdì prima di Merrill Lynch, e quindi un'operazione rapidissima per cercare di piazzare anche Merrill Lynch, oltre che Lehman Brothers, e l'altro grandissimo pericolo, il fallimento di AIG, che garantiva una gran quantità di posizioni finanziarie dal punto di vista assicurativo delle banche americane. Goldman Sachs, per esempio, se non avesse potuto incassare i soldi di AIG, sarebbe saltata per aria. Ecco, è stato un weekend, quello di 4 anni fa, terribile, un weekend dove abbiamo rischiato la crisi sistemica. Si decise poi di salvare Lehman Brothers, si organizzò la fusione di Merrill Lynch con Bank of America, ma non si trovò l'accordo, e ancora oggi ci sono interpretazioni molto diverse fra loro, per salvare Lehman Brothers. Da lì, davvero, in quei mesi abbiamo passato momenti molto difficili. Se ci sembra che la crisi sia difficile oggi, beh, allora davvero abbiamo rischiato di perdere i depositi bancari. E poi è stato un intervento massiccio da parte delle banche centrali, con grandi iniezioni di liquidità coordinate a livello internazionale, che sono riuscite in qualche modo a ribaltare la situazione. Ecco, solo oggi, 4 anni dopo, arriviamo ad avere un'impostazione di architettura per cercare di evitare che la crisi debitoria europea continui ad affliggere le nostre economie, a impedire una ripresa economica. Mario Draghi è intervenuto, ha detto che avrebbe fatto interventi limitati fino a quando non ci sarebbero stati degli spread coerenti con i fondamentali macroeconomici. Poi, come vi dicevo, è intervenuto anche Ben Bernanke. Dunque, una situazione ancora in divenire 4 anni dopo. La disoccupazione in America non va bene, il presidente Barack Obama rischia di non essere rieletto proprio sull'economia, anche se nel weekend ci sono stati dei sondaggi che lo danno in leggero recupero proprio sul fronte economico, e lo danno comunque in vantaggio su base nazionale rispetto a Mitt Romney. Ma il bilancio a 4 anni è chiaro: abbiamo ancora molta strada da percorrere davanti a noi prima di poter archiviare questa crisi, che è stata la peggiore dagli anni 30. Un portavoce del governo libico ha comunicato che l'attacco al consolato americano a Bengasi è stato premeditato, organizzato da un gruppo terroristico. Il governo libico ovviamente ripete di essere estraneo, e non abbiamo motivo di dubitare che lo fosse a questo attacco. E proprio per dare una dimostrazione di attivismo sono state arrestate 50 persone. Si è ricostruita una traccia attraverso alcuni dei video, alcuni dei filmati, alcune delle foto. Non sappiamo se poi questi arresti siano degli arresti veri, degli arresti fittizi, degli arresti soltanto per far vedere che si sta facendo qualche cosa. A queste dichiarazioni in arrivo dalla Libia ha risposto ieri mattina Susan Rice. Susan Rice, ve lo ricordo, ha un rango di ministro ed è l'ambasciatore, il rappresentante permanente degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Sentiamola. What happened in Benghazi was in fact initially a spontaneous reaction to what had just transpired hours before in Cairo. Ecco, avete sentito Susan Rice, intervistata ieri mattina da David Gregory a Meet the Press su NBC. Dice: beh, c'è un'indagine dell'FBI in corso, ma le informazioni che abbiamo ora ci dicono che quello che è accaduto a Benghazi è stato inizialmente una reazione spontanea allo stesso video che ha provocato le proteste al Cairo. Crediamo che alcuni estremisti abbiano poi approfittato della situazione e si siano recati al consolato con armi pesanti, trasformando così la protesta in un episodio più grave. Ecco, c'è da chiedersi se un gruppo che reagiva in modo spontaneo a quella che era stata percepita come un'offesa contro la religione musulmana si organizzasse improvvisamente con delle armi, con delle mitragliatrici, con delle granate, con dei razzi. Ecco, l'idea è che comunque ci sia stato un gruppo, e questo la RAIS lo ha ammesso, che si è mischiato col gruppo di protesta spontanea, approfittato di questa situazione per poi lanciare un attacco abbastanza improvviso. Ecco, perché c'è questa posizione americana? Perché dov'era l'intelligence americano? Dov'era il sistema di interferenza, di allarme? Se dietro c'era un'operazione coordinata da frange islamiche e da Al-Qaeda, dov'erano i servizi segreti americani? Ecco, se questo attacco non era stato premeditato, l'America si è dovuta arrendere all'evidenza di quello che è il sentimento improvviso che capita, che si manifesta in una folla, e dunque non poteva fare assolutamente nulla. I just think that it's important to communicate to Iran that there is a line that they won't cross. I think a red line in this case works to reduce the chances of the need for military action. Ecco, in questo quadro medio orientale si è di nuovo inserito Benjamin Netanyahu, e questa volta Netanyahu, il primo ministro israeliano, ha portato il suo messaggio direttamente agli americani. È apparso in tutti i principali show televisivi di ieri mattina, si è fatto intervistare da Meet the Press sulla NBC, un'intervista molto completa. È stato molto interessante vedere come David Gregory cercava di stanarlo, gli chiedeva per esempio, primo ministro, qui sulla questione iraniana, lei sostiene, lei ammette, condivide l'idea che gli Stati Uniti di Obama hanno buttato Israele sotto un autobus, cioè hanno abbandonato Israele, e poi incalzava, ma lei preferisce le scelte politiche di Romney o quelle di Barack Obama? Ecco, Netanyahu è stato bravissimo, non si è lasciato intrappolare, ha detto che assolutamente lui non interferisce, non può neanche immaginare di interferire con le elezioni americane, prendere posizioni, però ha ribadito la questione della linea rossa, anche lui con qualche piccola modifica, lo disse alcuni giorni fa, e cioè disse gli Stati Uniti devono stabilire una linea rossa al di là della quale l'Iran non può andare, altrimenti scatterà un attacco militare. E in questa dichiarazione che vi ho fatto sentire Netanyahu dice: credo che sia importante comunicare all'Iran che esiste una linea rossa che non può oltrepassare. Questa linea rossa serve a ridurre le probabilità di un intervento militare, perché se l'Iran capisce che oltre quella linea non si può andare, è improbabile che la superi. L'Iran, ha poi aggiunto Netanyahu, è sempre più vicino all'arma atomica. Gli mancano 6 mesi per arrivare al 90% dell'arricchimento dell'uranio che gli permetterà di ottenere l'atomica. Per questo è importante stabilire questa linea rossa adesso, prima che sia troppo tardi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Bene, il tema nucleare, ne ha parlato Benjamin Netanyahu, in questo caso ne ha parlato discutendo l'ipotesi di una bomba atomica in costruzione in Iran. Però abbiamo visto la settimana scorsa il Giappone ha detto che entro una certa data, entro una quindicina d'anni, chiuderà tutte le sue centrali atomiche. Quindi il tema del nucleare è più attuale che mai, e voglio farvi ascoltare una delle tante canzoni che sono state scritte contro il nucleare di Jill Scott Heron. Shut them down. Shut them down. Shut them down. Shut them down. Shut them down. Shut them down. Shut them down. Well, did you feel that rumble? Did you hear that sound? Well, it wasn't no earthquake, but it stood around. Like it or not, gotta work for Earth for what it's worth, 'cause it's the only Earth we got. Shut 'em down. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.